Allora ci avviciniamo a mezzogiorno e abbiamo un altro intervento. Questa volta si tratta di presentare un'iniziativa, oggi chiaramente è la vigilia di un altro 25 aprile, iniziativa che ci sarà domani, proprio dedicata alla resistenza e alla liberazione. Al telefono c'è un compagno che ce ne vuole parlare. Sì, pronto? Pronto. Buongiorno. Ciao. Allora, sì, io volevo parlarvi di questa iniziativa che facciamo domani a San Lorenzo. È un'iniziativa che si ripete ormai da diversi anni e che, diciamo, si colloca naturalmente nella giornata del 25 aprile, ma che però per alcuni motivi contingenti in qualche maniera riguarda esclusivamente, insomma, il quartiere di San Lorenzo. Mi spiego. Per parecchio tempo io, insomma, sono un attivista del quartiere, diciamo, da diversi decenni, e abbiamo letto questa cosa del 25 aprile come la giornata in cui avremmo dovuto fare il sacrificio di diciamo difendere il quartiere, anche un po' questa suggestione sulla quale sorrido al giorno d'oggi, ma da queste visite non gradite di esponenti neofascisti che venivano a vario titolo il giorno del 25 aprile a celebrare i loro lugubri riti in quel del Verano. Questo ha determinato, farlo fino a 10 anni fa circa, problemi anche, insomma, di sicurezza del quartiere, problemi anche di scontro fisico, problemi con la polizia che, insomma, a un certo punto ci siamo un po' stancati di questo refrain, che, insomma, ci sembrava anche assecondare una certa, come si dice quando una cosa è lugubre, non mi è il termine giusto, però questa cosa del loro essere lugubri. E quindi abbiamo deciso invece da quel momento in poi di leggere questa cosa del 25 aprile in chiave positiva, tutelando il quartiere e in qualche maniera presidiandolo con un'iniziativa che potesse, diciamo, tenere accesa la memoria e anche il significato delle esperienze di alcuni san lorenzini doc. Sapete, l'identità di San Lorenzo, come la sua composizione sociale che cambia il tempo, vabbè, ma la sua identità è inequivocabilmente definita. In numerosi punti del quartiere sapevamo che c'erano queste lapidi dedicate ai partigiani, molti dei quali, diciamo, proprio espressione tipica della romanità, dell'essere sanlorenzino. Molti, diciamo, artisti, Nicola Ugo Same, il tenore del popolo, arrestato perché si rifiutò, cantando al Teatro dell'Opera, di iscriversi al Partito Fascista, poi fu trucidato alle Fosse Ardeatine. Manlio Gelsomini, il medico del popolo, un ambulatorio clandestino a Piazza dell'Immacolata, oggi il luogo della Movida, no? E poi c'era i tre fratelli Fevola in via dei Vestini, fucilati a Leonessa in provincia di Rieti mentre insomma inseguivano i tedeschi in fuga. E poi questa figura che è quella che più abbiamo, diciamo, apprezzato, quella di Orfeo Mucci, che è morto nel 98 e che abbiamo anche conosciuto per radio, e che un po' ci ha spinto a far rivivere la memoria del quartiere in questo modo. Ne voglio citare un ultimo di questi qua, di queste figure la cui memoria è impressa nelle lapidi del quartiere. Questa iniziativa si chiama Anche i muri parlano, è quella di Raul Cirotti, un idraulico di 30 anni che, inseguendo i nazisti in fuga sulla Tiburtina, fu proprio l'ultimo, diciamo, a morire, tra gli ultimi morti, insomma, dell'occupazione nazista e diciamo della dittatura fascista su Roma. Si chiama Anche i muri parlano, si caratterizza come una visita collettiva attraverso questi luoghi della memoria. Portiamo un fiore al partigiano, presso ogni lapide depositiamo dei fiori, gli diamo una pulita con un impianto d'amplificazione, con i canti della liberazione, eccetera. E poi tutto finisce al parco di Via dei Galli, dove facciamo un pranzo, diciamo una braciolata, un pranzo così molto, anche questo molto apprezzato, ma insomma è un dettaglio dell'iniziativa. Tutto questo chiaramente non è in contrapposizione con il corteo, anzi noi invitiamo ad andare, abbiamo un numero sufficiente di persone per realizzare questa cosa, a cui teniamo veramente molto, e che quest'anno ha rilevato, lo dico giusto come un'ultima cosa, che ci ha fatto molto piacere, parecchio interesse anche alcuni istituti di istruzione della scuola, e questo, diciamo, ci sembra un dato significativo, insomma, mano a mano per tempo che passa, poter, dopo averla fatta rivivere, perché è dimenticata volutamente la memoria di queste figure così eretiche pure rispetto alla resistenza, e insomma che possa trasmettersi con persone, insomma, un po' più giovani di noi, che magari si avvicinano alla vita, alla politica, in anni diversi evidentemente dai miei. io avrei finito. Beh, va bene, va benissimo. Ah, insomma, mi sembra tutto. Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. No, eravamo in ascolto proprio perché volevamo capire bene come si andava a sviluppare questa iniziativa. Che mi sì, sembra, insomma. Questo furgoncino, insomma, che è un insomma, piccoletto di questi che so, viaggio, non so, con quattro ruote, poco più di un cinque ruote, le casse, un gruppo elettrogeno, un microfono, giriamo per il quartiere, queste lapidi sono deposte in vari luoghi, insomma, per cui diventa proprio una passeggiata, ecco, pure piacevole se c'è una bella giornata come questa, insomma, così sarà. Va benissimo, beh, certo, è il modo migliore, come tu giustamente sottolineavi, quello di cercare di trasmettere, insomma, i contenuti e la memoria di quella stagione assolutamente cruciale, insomma, per il nostro paese, alle generazioni più giovani. È anche un modo, credo che, insomma, anche questo sia da sottolineare, per appunto non dare troppa importanza poi, no, appunto alle visite che minacciano i topastri neri e che poi generalmente negli ultimi anni così. Guarda, mai tempo fu più perso nella vita mia. Cioè, te giuro, a distanza di tempo e guardarmi indietro, ma che veramente penso alcune volte di essere stato un idiota. Cioè, invece, veramente se fa una cosa piacevole, no, però vabbè. Certe volte se doveva fare, diciamo, via. Beh, sì, in certe occasioni, quando ce vo', come si dice. Esatto. Va bene, va bene. Senti, a domani, ciao ciao ciao. Ciao ciao.